Vincenzi. Sì, sto uscendo, avanti, chi è? Ciao Fabrizio, scusa, sto provando questo microfono su un Galaxy che non fermo, come va? Un po' strano ti sento, molto un po' po'. Molto? Aspetta che cambia la batteria. Ma lo sai, allora è quella. Brecco, brecco. Avanti. Ciao Giuseppe, a quella reale da Ottava. Sono con Giuseppe. Da dove sei? Lima Delta, la veloce. Hola. Sì, ciao, ma ti sento un po' male come modulazione. Perché c'ho il microfono troppo alto, aspetta. Ma meglio ora? Non so, sembri un po' distorto. Distorto? Vedi, Antonio, c'hai tonalità solo basse, mancano gli acuti, buongiorno. Buongiorno, aspetta, mi stavo chiamando. Chi è l'altro? Giuseppe Aquila Reale. Ciao Giuseppe, da Ottava? Eia, Ottava. Ho visto, sono passato io alla Porta Torre, ho visto la tua antenna. Ma non c'è più lì la pizzeria sotto di te? No, non c'è più la pizzeria, ha chiuso. Ma quella è tutta roba tua praticamente, è casa tua quella? Anche la pizzeria, la frutta e verdura, cosa c'era lì? La casa mia è la taverna sotto, il piano di sopra, e la pizzeria è ancora libera, non sono riusciti a affittarla a nessuno, spero che non succeda. Una rottura di balle, lo so. Lo so, quando c'è un'attività commerciale sotto è sempre una rottura di balle. Vabbè, sì, ho visto lì. Quali cos'è? L'Energy 5 ottavi, 3 radiali? Sì, capito, ti sento un po' basso, non ho capito cosa stai dicendo. Mi senti basso? Ah, madonna, sei nuovo qua, non mi senti? Sei bassino, non so. Qua sei nuovo, tu, bassino quanto? Non ho capito. Io sto uscendo, sto andando con una 30 watt modulati. Ma tu da dove stai trasmettendo? Io sono sulla strada Perugino. H, ma è un po' bassino il segnale, a volte è un po' incomprensibile. Non lo so, io non vedo Sassa, io non vedo niente, però a Porto Torre ci arrivo benissimo. Buona Pinino, ecco. Chi è? Tutto satiro, chi è? Mi arrivi, sei incomprensibile, però come segnale un po' basso, la radio un po' bassa. No, se bassa la radio hai qualche problema tuo, perché questa, io sto andando con l'MC60, è un 140, anzi, è anche troppo alta la modulazione. Avanti Brecchi, chi è? Ah, devo regolare questo microfono su un Galaxy, che c'ho questo Wintex amplificato piccolino da Parma, vediamo se riesciamo a regolarlo. Sì, ma sei saturo Fabri. Guarda, adesso ho abbassato, ero al massimo, 1, 2, 3, prova, vediamo se lo devo abbassare ancora. No, è un problema di watt, sei saturo. Adesso, ma sei saturo, sei più alto del normale, c'è qualcosa attaccata, non lo so. No, non stai uscendo Fabri di radio. Forse questo microfono. Ecco, adesso sto uscendo, come mozzo il cavo. Abbassiamo. Allora, lo metto a 5, veniamo a 5, come sta andando? Ho capito Fabio, la modulazione è buona, ma ti ripeto, sei saturo, sei incomprensibile come modulazione. La modulazione c'è, ma è satura. Aspetta, abbasso il gain dell'apparecchio, vedi un attimino adesso. Hola, senti qua adesso, bene. Cercare di abbassare la potenza, non lo so, 6,9 più 30. La modulazione è satura, non abbassare la modulazione, tirala su. Allora non lo so, il microfono. Devo provare qualche altro microfono. No, non sono attaccato. Quanti watt darà questo qua? I watt che dà la radio, non lo so. Non lo so Fabri, sei saturo da me, ma saturo però, pare che sia attaccato. La modulazione è bassa, non è alta, è normale. Se la baci ancora è peggio, quindi cercate di avere su, prova a mettere un altro tipo di microfono. Ma mi ha detto Giuseppe che sono basso di radio io, ti risulta? No, vai bene. sembra molto strano, è un problema quindi di distanza, non lo so, mi ascolta a basso. No, non te, sei molto forte di radio. Va meglio con questa è l'Intec. Sì, va meglio, il segnale è il mio, Anto, va bene. È alla grande qua. C'ha l'antenna uguale alla mia, c'ha l'amico di Ottava. Vabbè, ma considerando il fatto dove lui e dove sono io, evidentemente, io l'ho vista, l'antenna è molto bassa, non è che sia così alta, quindi a me non mi vede lui. Va bene. Giuseppe, riprendi, aspettiamo che te Fabrizio sta facendo una prova, se no mi sposto di canale. Questo è originale. No Fabri, questo è peggio, è tutto gracchiante. Questo è ancora peggio. È gracchiante. Sì, uguale. Questa gracchia addirittura, ma sei sempre saturo. Secondo me è un problema di radio. Può essere, viene a fermare parecchio. A controllare. Allora, questo non va bene. E guarda l'altra, non ha cambiato niente, è un problema di radio. Perché la modulazione c'è, ma è satura. Antonio, confermi? Confermo, confermo. Vabbè, non è che l'hai dirata che c'ha radio, eh? Abbassa se c'è la regolazione della potenza, ma qual è quella modificata? Quella è modificato. Questo è il Galaxy Pluto, che andava benissimo, ma non lo accendo mai, SWR, tal, che cavolo c'ha qua, RF Gain, volume, specie, no, questa è la potenza, credo che non si può regolare qua. Non ho capito niente Fabri, è tutto gracchiante, devi mettere un microfono buono che vada bene e poi insomma cercare un po', perché la radio sta saturando, se i vatti sono quelli. Cappa, c'è ancora Giuseppe, non Cappa? Sono qua. Cappa, mi arrivi bene tu da Cappa, mi sento un po', una bella antenna, l'antenna è quella precisa, la tua Tu da dove sei? A Latte Dolce, Lima Delta. Ah, caffa. Sì, probabilmente sì. Latte Dolce ce l'hai davanti, Anto, io sono coperto per lui. Però siamo sempre alle solite, come San Pio di Sorso. Io San Pio di Sorso lo sento S8, Santiago 8, e lui a me non mi sente. A Giuseppe lo sento Santiago 7, e lui a me mi sente più basso. È un problema vostro di ricezione, io non ne ho problemi. No, io non c'è nessun tipo di problema, mi sento tutti. Santo, chi l'ha fatto? Aspetta che vado un attimo da Gabriele, che si è tirato le mutande. Io metto il babbo, che esce sempre a culo. Anche a me arrivi Santiago 7, la radio che è bassa. Non può essere bassa, Giuseppe, non può essere bassa. Io sono con una radio professionale, hai sentito Antonio? E questa spinge la modulazione, non è un microfono qua, un MC60, è la radio 140, è più alta di così la modulazione, non penso che si possa usare. Cappa, non so cosa dirti, il segnale è alto, però la radio a volte faccio fatica a capire. Non so cosa dirti. Piovendo a dirotto qua, non so, guarda, io c'ho picchi di modulazione da 20 watt a 40 watt, quindi sta spingendo il microfono, non ci sono problemi per me. Ecco, vediamo adesso, vediamo con questo, è sempre brutta. Sì, Fabri, non è brutta, stai attento, è solo satura, ma è una saturazione micidiale, come che stai usando un amplificatore, ok, in vicinanza, questo è il coso. Però la radio c'è, ma non ti posso dare 5, perché è satura. Babbo, qui me la controllo, non tempo la tiro giù e la metto al banco. Adesso provo un'altra radio. Prova Fabri, perché faccio fatica ad ascoltarti, tra l'altro anche Antonio. C'è stato un break avanti. Luca, stazione Floppy, buongiorno a tutti e ben sentiti. Claudio, qua la tua radio la sento anche dalla, se apro lo sportello della lavatrice, è una potenza. Ma non ho dubbi, ciao Lu, buongiorno e buona domenica. Ma non ho dubbi, è un problema suo. Io è 40 anni che uso questo tipo di radio, di microfono, e mai nessuno mi ha detto niente. Lui dice che mi sente basso di radio, evidentemente c'è qualcosa da lui, non lo so. Hai sentito Giuseppe cosa ha detto Luca? Luca è via l'Italia, cioè non ho problemi io di radio, ma chiunque, non, mai nessuno mi dice che ho problemi di radio. Sei l'unico che me l'ha detto. Riprendi e fai girare. Capo, boh, non lo so, magari è un problema mio di QRM momentaneo. Non so. Sì, può essere un problema di QRM, può essere un problema di ricezione, non lo so. No. Io ti posso garantire che problemi di radio non ne ho, eh. Ok, avanti, Antonio, io aspetto Fabrizio a fare questa prova e poi chiudo perché devo andare a mangiare. Avanti, Antonio. Dai, riprendo io. No, anche io devo andare a fare una cosa. Qua, quella regola a controllare con Galaxy, probabilmente non lo so cosa c'è, devo controllarlo qua, e non andava benissimo, solo era fermo, mai acceso, adesso l'ho messo a scaldare e poi il controllo lo ricontrollo. Adesso cosa stai usando? No, adesso sto usando quello che sto preparando questa radio e questa già va bene, lo so già. Ok, questa va benissimo, la grande, questa non è satura, quella là sicuramente c'è qualcosa da vederti, Fabri, mi sa che la tieni ferma. Va bene, signori belli, allora io vi saluto e vado a mangiare. Ci aggiorniamo stasera per tutti. Ciao Fabrizio, Luca, Giuseppe e Antonio. Ciao ciao. Aspetta, ma secondo te questo è il TS50 col Super Siderick? È il Turner più 3, il Turner, sì, il Turner, il Super Siderick. Guarda come va, secondo te, se posso aumentare o la lascio così? Allora, intanto la tonalità è molto medio-bassa. Possibilità di sollevare gli acuti non ne hai, se stai usando tane più 3 tiralo un po' più su, vediamo. Ma il tipo di microfono questo è sempre così, è un po' più verso il basso, guarda adesso. Adesso è più alta la modulazione, però chiaramente tende sempre ad avere la tonalità medio bassa, mancano gli acuti, ma è abbastanza buona, non ci sono problemi per me. Ma il microfono ti tira, e poi soprattutto la mia voce, questa va bene per una voce a meno toni medio bassi. Quindi diciamo che lasciarla uno lì e quella va bene, dai, era giusto la regolazione che stavo provando. Però io la prova abbiamo fatto con quella radio lì, col microfono normale va molto bene lo stesso, eh. Neanche con il microfono normale, però questo mi sembra che spinga un po' di più. Sì, ma non credere più di tanto, Fabri. Se tieni il Mickey Gain del 50 sollevato col microfono normale, io preferisco più quella. Non pensare che spinga molto di più questa. E poi io prendo il microfono normale per curiosità. Prova, ti dico anche la chiarezza, sicuramente è superiore. Scusate un secondo, Fai, fai. Ho detto che se me ne combina anche una, scusa se mi ha chiamato, ma ero con Gabriele, ero. Va bene, va bene. Piccolino, lascialo fare. Buonasera! Ebbene Luca, buonasera. Buonasera, allora guarda, questo è il suo microfono normale qua. Vabbè, c'è un avviso, è molto meglio questo. Lascio questo, lasciamo questo qui che va meglio. Se poi sta spingendo anche di più, lo vedo dallo smitter. Esce anche troppo alto, abbassa appena Mickey Gay che lo regoliamo bene, così lo lasci così. E qua, aspetta che ho allontanato la voce, considera che qui c'ho solo due potenze, due alto e basso sul TS50. Adesso sì, modalità alta. Modalità alta col microfono a circa 20 cm. Così lascia, devi modulare così, per essere il microfono normale spinge anche troppo, più dell'altro. E allora lascio questo che è più carino, va bene. Lascia così Fabri che va bene, si può usare tranquillamente. Ciao Lucaria, un abbraccio a tutti, io chiudo perché è pronto il pranzo. Ciao ciao. Mi accodo anche io, QRT per me, per questione di tavola. Ciao a tutti. Fatevi sentire stasera, tanto tempo è brutto, ci facciamo due chiacchiere. Ciao a tutti, buon pranzo e buona domenica. Ciao ciao. Come mi sono intrippato. Ce la risentiamo. Ah, fammi il bongo, roba troppo ansiosa in macchina. Almeno poi sono pazzo furio. Questi ultimi due passaggi e passa ti ho sentito molto meglio. A chi, a me? Cappa. Ciao Brittella, ciao Ecla. Ehi, Yaru, tutto, Brittella, Cadarella, tutto, Capparetta, tutto ciò. Ciao amico mio, un abbraccio grande grande. Ok Giuseppe, dai, ci sentiamo stasera, ci aggiorniamo stasera, ok? Ciao per tutti, Ciao ciao. Cappa, ciao Claudio, ciao ciao. Ciao ciao ragazzi, ciao Lucarie. Ciao. Ciao Gla, saluto a tutti, ciao, buon pranzo, io ho già pranzato. Ah, un giro di manca e poi mangiamo, ciao. Guarda, funghi, carciofi e panna, e non c'avevo l'altra roba da mettere, vabbè, però buona, E l'odore è buona, fatto con i carciofi e la panna, e se c'avevi un po' di bottarga da spruzzarla sopra era ancora più buona. Come piace, Cla, un adrudo a voi, boh. Ehi, cosa fai? Ti buchiamo Anna. Dai, ci sentiamo, mi sta chiamando Anna. Ciao, Rogariè. E la casarella, ciao, saluta Anna, ciao. Un abbraccio anche a voi, ciao. Grazie. Aspetta che dopo preparo le digioni con la trafissa, io. Nulla, eh. Vabbè, Fabri. Fabri, non c'è più. Ehi, io ho già mangiato. E me ne sto a casa, una giugana. Mi ti dormo, va. Così mi riposo, così domani sono bello fresco, domani un'altra ghetta a Bisanti, a nulla. Sigate Giuseppe, da un parla, cioè. Ah, ciao Giuseppe, mi ascolti? Giuseppe, mi ascolti? Ottava. Questo non mi sente. Forse ha chiuso, va. Sono qua. Mi ascolti Giuseppe? Sì, ti ascolto. Come mi ascolti? Bene? Male? No, adesso va bene. Adesso va bene. Ma quanto fa di segnale lì a Ottava? Per passaggio. 1-2-3, 1-2-3. Santiago 9, Radio 4. Così poco. E io come arrivo a Ottava? Allora un po', 1-2-3, 4-5-6. Prova. Santiago 9, Radio 5. Tu sì, Santiago 7, Radio Venere. Papa, no, qua è 9-10 è lui. A voglia. E Antu, tu ce l'hai più vicino, capito? No, qua è Santiago 7, la radio è 3. La mia è 3? Sì, Santiago C7, radio 3, arrivi da me, sì. Sì, K. K, io me ti arrivo lui. Fondo scala, Antu. Fondo scala. Ehi, vabbè, qua stai usando l'amico di Ottava. Cosa? Dico, che tipo di antenna hai? Ma è un'antenna piccolina. No, l'antenna già è buona, già è buona. È che ovviamente ci sono a livello tetti un po' coperto, dai. Diciamo che è troppo bassa, è quella uguale alla mia, c'è a me. Ah, ma sei vicino a Luigi Vulcano? Cappa. Ok, dai, va bene. Vediamo. Andava, io ho già pranzato, sono bello pieno. Adesso ci vuole il pisolino. Anzi, adesso mi attivo le sveglie per domani mattina. Lui, a domani. Insomma, non piova, cavolo. Io sto facendo pecora bollita. Ma l'ultima volta l'ho mangiata. Cazzo, guarda, se non scappo io a casa, in bagno, me la faccio addosso. Scappa. Quella li metti a un altro 2-3 metri di palo, 4 metri di palo, sai com'è pompa? Io ce l'ho un po' alta, ce l'ho dal tetto. Pompa che la marazzucce. Sì, ma più di così non si può fare. E chi l'ha detto? In una giugana si deve alzare il palo. Guarda, se la alzi 2-3 metri, quell'antenna, pompa che cosa amara, proprio così sembra. Già lo so, magari vediamo più avanti. Ma cos'hai tu, la versione Midland o Sirio? La versione? Midland o Sirio? Dovrebbe essere Sirio. Perché? Allora è preciso come la mia. Perché io ho la versione Sirio. Molti hanno la versione Midland, che da voi la stessa cosa, non cambia nulla. La migliore antenna dell'universo. Cappa, si può giurare. Lui c'ha la versione Sirio, cioè versione Midland. Vabbè. Buongiorno a tutti, riprendi Luca. Vabbè, Marco. Ehi, salve a tutti, vabbè. Come magnato, io devo magnare. Non è finito, Va bene, ma chi c'è anche Luca di Via Buda, questo ha già chiuso. Non è finito, eh? Che cosa, è paletto, mamma mia. Marco, bene, ti arrivo il segnale. Anto, 9.30, di più non va, Luca, 9.30. Luca di via Budapest, prima stavo ascoltando, 9.30. L'amico di Ottava arriva a Santiago 9, vediamo se mi copia. Attenzione l'amico di Ottava, segnale radio, grazie. Ti copio benissimo, Santiago 9 Radio 5. Naturalmente aiutato, la verità. Sì, anche io sono aiutato, aspetta che sgancio, aspetta, vediamo, aspetta, ma cazzo, che ora per sganciare questo. No, questo. Guarda un po', è sceso il segnale Giuseppe. Sì, è sceso, ti copiavo meglio prima. Vabbè, questi sono 5 watt della radio, Già va bene, dai, è stata a sentirsi, la radio è sempre buona. Sì, sì, no, è sempre buono il segnale, diciamo che prima eri più presente, adesso appena appena più basso. Positivo, dai, va bene. Hai finito, va con Condo, 2434, Hai finito? I numeri da mamma mia. Ascolta Luca, ma questo Windows 11 alla fine vale o non vale? Perché c'è mia zia che si deve cambiare computer, che aveva Windows 7, però siccome fa operazioni bancarie, roba delicata, vuole cambiare a 11, però tutti si stanno lamentando che rispetto al 10 è una mezza cagata, così è. Quindi mettere 10. Oh, guarda che ne sta portando una fusaro, me. Però Luca, comprando i computer da tavolo, i portatili nuovi, c'hanno tutti Windows 11, dove lo trovo un Windows 10 nuovo? Ah no, vabbè certo, no, se sono nuovi non lo trovi a 10, no, sono aggiornati a 11, io ho sempre il 10, è una bomba, qui a Cantone c'ha il 10, che ci ti può dire la stessa cosa, che gli ho dato un bel PC, gli ho dato, questo non lo può dire, comprimi altro. Una bomba quello, l'ho fatta con l'impianto, è poco zocca a me. Processore i7, non so di quale generazione sia, mi sa della terza, quarta generazione, comunque è una bomba, veramente gira bene con l'SSD di hard disk, non quello meccanico. Marco, se tua zia c'ha un computer vecchio, Windows 11, giusto, lo confermi, non ti sto capendo. No, lei ha un computer portatile con Windows 7, però siccome non c'ha aggiornamenti di sicurezza e è obsoleto per fare in sicurezza, voleva comprarsi uno nuovo e purtroppo di serie lo trova con Windows 11 dai negozi, capito? Poi conta una cosa Luca, Windows 10 è uscito dall'assistenza ufficiale, sì, c'hai un anno di aggiornamenti ancora, un annetto, io gli ho fatto aderito a quel programma di aggiornamenti di sicurezza per un anno, però anche quello è diciamo fuori dai giochi, ecco. Quando finiranno quest'anno di aggiornamenti di sicurezza non ne riceverai più, capito? Siccome lei deve fare operazioni bancarie, roba delicata, vuole un computer blindato più aggiornato possibile, ecco. E purtroppo, che le piaccia o no, dovrà passare Windows 11. Poi, se uscirà un Windows 12 migliore, basta fare l'aggiornamento al nuovo sistema operativo e si spera sia migliore del 10, dell'11. Sì, no, l'11 già è abbastanza, è simile, non è che sia molto diverso dal 10, solo che ha le impostazioni diverse. No, va bene, però allora, per tua zia, se ha questo PC che c'era Windows 7, allora, ti posso dare una dritta se vuoi, invece hai comprato uno nuovo, come si dice, conviene potenziare quello che ha, cosa ne so, 4 giga di RAM ci sta, va bene, gli aggira, ci mette l'SSD come hard disk, lo stato solido, ok? E poi ci mette Windows 10, vedrà, sai come gira, è una bellezza, io ce l'ho fatto così, è una bomba. Gappa, io vado a cucinare, vado. Ce la risentiamo alle prossimine, ok? Comunque per chi lo volesse sapere, Fusaro sta portando una Energy 5 ottavi a Sassari, chi la vuole ce l'ha lui, ok? Ok, ciao. Ciao Anto, ci sentiamo alle prossime. prossime. Sì, anche un upgrade si potrebbe fare, se ha abbastanza RAM. D'altronde il processore è già 64 bit ed è cosa buona, basta cambiare l'SSD, sistema operativo, e il resto dovrebbe andare bene. Ma lo sai che forse c'ha addirittura 8 giga di RAM? Che ricordi? Marco, se hai bisogno, cioè il mio nome, fai sapere. Ma fai sapere se vuoi, io ci metti l'SSD come artisti, vedrai che è una meraviglia. Certo che se lo fai viaggiare con la disca meccanico, una cagata. Sì, sì, suo era hard disk meccanico. Era grandetto, però è meccanico, cioè non c'è paragone. Con l'SSD vola. E adesso glielo dico e valuta, dai. Però le sto dicendo una cosa, se lo compri nuovo, non comprare quelli da 299 euro che non c'hanno RAM, non c'hanno nulla. La RAM di Windows 11 deve essere 16 GB di RAM, perché il sistema operativo è pesantissimo, mentre io ho di background tipo 50 applicazioni o 50-80 applicazioni, lì ne hai di background, quelle di sistema è roba di 200. È pesante Windows 11, per quello ha bisogno di un di RAM, capito? Se gliene metti 8 già sei già troppo terra a terra come RAM. Vabbè, comunque se hai bisogno fammi sapere, non c'è problema. Non problema, adesso io mi riposo un po', Marco, che voglio recuperare qualche ora da stanotte che non ho riposato bene. Se hai bisogno fammi sapere, dai, lo lasciamo a me, se vuoi io lo potenzio io, cosa sta lì a spendere soldi? Se va, lo potenzi quello, con pochi soldi te ne esci, ora ci va a spendere 300-400 euro per un computer nuovo, ma lascia perdere. Vedrai, se fai come ti dico io, vedrai che gira. Signori, io vi saluto che questa pecora sta bollendo e devo seguirla. Buon proseguimento, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, anche io vado a riposare, buon pranzo, ciao Marco, ripeto se hai bisogno scrivimi, ciao. Ciao a tutti, ciao l'amico Rettava, adesso non mi ricordo il nome, ciao Luca, e anche io vado ai fornelli, dai, noi mangiamo sempre un po' più tardi, allora i signori, ok, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao Rettava, Giuseppe. Ciao Giuseppe, ciao a tutti.